conosco te la nostalgia che ti sorprende all'improvviso. Rallenta un po' la corsa che ti ha tolto il fiato e ti ha deluso. Se il mondo intorno a noi non ci assomiglia mai, dividilo con me. Così anche tu. Ritroverai la tua magia, piccola stella innamorata. Per quanta notte ancora c'è, in questa notte appena nata. Porterà con sé i fantasmi suoi, e se non dormirai io ti ascolterò e ti stringerò più forte. Spazio c'è qui dentro me e ci sarà adesso che mi vuoi così anche tu. Ci sarà adesso che mi vuoi così anche tu. Adesso che mi vuoi così anche tu.